Hadith numero 8 da Ibn Umar, che Allah sia compiaciuto di ambedue, è stato trasmesso che l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la bingloria, disse: ho ricevuto l'ordine di lottare affinché gli uomini rendano testimonianza che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è l'apostolo di Allah, eseguano il rito d'adorazione e paghino l'imposta coranica. Quando avranno fatto tutto questo, essi salvaguarderanno il loro sangue e i loro averi da me, fatti salvi i diritti dell'Islam. Il loro conto è presso Allah l'Altissimo. L'hanno trasmesso al Bukhari e Muslim.